9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 1 luglio. Il tema della puntata di oggi è la delusione del centrodestra, degli elettori del centrodestra, un rischio concreto che questa maggioranza e questo governo corrono. Bene, in questi giorni editoriali di grandi giornalisti di riferimento per l'informazione orientata a una simpatia, diciamo così, a un consenso verso Silvio Berlusconi, hanno esplicitamente intavolato questo discorso. Vittorio Feltri, per esempio, il direttore del Giornale, ha picchiato con la sua abituale sincerità e più commenti ha detto: state attenti, rischiate di deludere. Lo ha ripetuto anche ieri quando Sandro Bondi ha inviato al Giornale un suo commento dicendo: io sono ingeneroso, le critiche al governo che fa il direttore del Giornale. Il direttore del Giornale gli ha risposto con un commento a fianco, continuando a sostenere la tesi: state attenti, rischiate di deludere. Oggi un altro editoriale di Vittorio Feltri che titola: Fini è una risorsa, sì, ma per l'opposizione. E toni analoghi vengono da altre testate di informazione vicine al centrodestra. Belpietro, il direttore di Libero, qualche giorno fa ha fatto discutere perché ha usato un titolo graffiante, ha detto: Silvio si è seccato dei suoi pirla, e anche lui ha enumerato un bel po' di critiche dicendo: insomma, troppi infortuni, chiamiamoli così, recenti nel governo per pensare che siano certo colpa dell'opposizione. Il problema è che quando si inizia a slittare, perché intorno a Berlusconi ci sono persone che non meritano o che non rivelano equilibrio politico, come politico, nelle proprie decisioni, quando si inizia con la Scaiola che non sa che ti paga la casa di la pigione di casa, poi si nominano ministri che non servono, o meglio servono solo a qualche cosa di diverso dal proprio compito istituzionale, eccetera eccetera eccetera, tutto quello che è avvenuto in quest'ultimo periodo, poi alla fine si paga il conto. Ecco, questo è il tema che abbiamo messo oggi sulla nostra agenda. Io vi invito a dire la vostra chiamando l'800 24 00 24 e iniziamo a capire con alcuni osservatori della stampa, perché oggi naturalmente è giornata in cui chiediamo a loro di darci una mano per capire più di quanto non sia utile, secondo me, chiedere ai politici. I politici ti potranno semplicemente dire se sono di centrodestra: ma no, non è vero, ma se sono dell'opposizione dicono: ma certo, figuriamoci. Ecco, quindi oggi abbiamo deciso che dei politici ne facciamo a meno, obbligatoriamente, perché quando si tratta di analizzare un tema come questo, forse l'analisi da punti di vista diversi di chi fa l'osservatore per professione ci è più utile, serve a tematizzare con più libertà le difficoltà che nei sondaggi ci sono nei sondaggi, quelli più vicini a Berlusconi, nel senso naturalmente che vengono guardati con maggior fiducia da Berlusconi, quelli, diciamo, di posizione intermedia come quelli di Mannheimer, quelli un pochino più lontani come Pagnoncelli e la Sipras, con cui spesso il premier polemizza. Ecco, il calo nei sondaggi c'è, è un fatto, e di fronte a questo calo naturalmente fioriscono le interpretazioni. Allora, sentiamo i primi due osservatori a cui chiedere se questa delusione del centrodestra, il rischio di deludere da parte della maggioranza del governo per errori propri più che per circostanze esogene, tipo l'andamento economico o chissà che altro, no? Per errori propri esiste o no? Non esiste. Allora, in questa prima tornata ci aiutano Francesco Verderami. Buongiorno Verderami. Che da anni, insomma, guarda per dritto e per rovescio, soprattutto anche per Corriere della Sera, gli sviluppi politici del paese, e Carlo Fusi del Messaggero. Buongiorno Fusi. Buongiorno. Allora Verderami, lei che dice, questa delusione per errori propri del centrodestra, nel popolo del centrodestra, i politici del centrodestra, parlando con loro in transatlantico, la avvertono, ne parlano, oppure dicono che è una balla inventata dai giornali? Intanto mi permetterei di salutare Carlo Fusi, che è un amico prima che un collega. Cambi saluti naturalmente. Grazie. Io ho aperto grande sconcerto anche nel, diciamo, tra i parlamentari del centrodestra. Naturalmente è molto, cioè, insomma, il tono della voce è piuttosto basso. La cosa, la considerazione che personalmente mi sento di fare è che la responsabilità però non è dei singoli soggetti che stanno sbagliando, ma dell'allenatore che guida questa squadra. Perché il problema è Berlusconi, non chi è intorno a Berlusconi. Perché la responsabilità, insomma, noi facciamo i giornalisti, allora facciamo l'esempio di un giornale, e se i giornalisti non vanno, la responsabilità è del direttore. Cioè, se una squadra non gira, la responsabilità è di un allenatore. Non c'è dubbio, perché l'allenatore fa le scelte, e se sono queste le scelte, poi alla fine questi sono i risultati. Devo dire anche che ci sono degli errori di carattere politico, poi ci sono degli errori di carattere personale che invece sono macroscopici, come il caso Scaiola per esempio, o la gestione del caso Brancher. Ma sul caso Brancher per esempio andrebbe verificato fino in fondo, andrebbero verificate fino in fondo le modalità con le quali si è proceduti alla nomina e il motivo per cui Brancher come primo atto da ministro ha chiesto il legittimo impedimento. Non dimentichiamoci peraltro che Brancher, lo dico a te caro Oscar, che di economia te ne occupi, il caso Brancher evoca la stagione turbolenta dei furbetti del quartierino, di Fazio e di Fiorani, della scalata Unipol a BNL, della crisi della banca leghista Credi Euronord, insomma di quella stagione, stiamo parlando dell'estate 2005, nella quale sembrava che la politica, tutta la politica, centrodestra e centrosinistra, si stesse dividendo, spartendo la torta di un pezzo di sistema bancario e quindi di un pezzo di sistema paese. Detto questo, il Presidente del Consiglio si ritrova incartato e avviluppato dai suoi stessi errori, perché adesso non riesce più a sviluppare azione politica, non sembra avere una carta attraverso con la quale, come dire, rilanciarsi. In più si ritrova da una parte un rapporto con Fini ormai completamente logorato. Io più volte ho cercato di capire quale potesse essere il punto di compromesso e non riesco a trovarlo. E dall'altra parte si ritrova con il ministro dell'economia Giulio Tremonti, il quale come dire, svolge la sua azione di politica economica e non sente ragioni, perché appena qualcuno prova ad alzare il ditino, lui come dire, ha un atteggiamento diciamo da politico che conosce, da politico che conosce l'economia come nessun altro, e per cui dice non si può. Poi ha un atteggiamento, insomma, nei confronti anche dei colleghi particolare, ecco, mettiamola così, famosa è la battuta con la quale si presentò alla prima riunione del Consiglio dei Ministri, durante la quale disse: cari colleghi, qui non ci sono ministri con il portafoglio e ministri senza portafoglio, siete tutti senza portafoglio. Questa quindi è la situazione nella quale si trova Berlusconi, ma Berlusconi si trova in questa situazione per sua responsabilità. Le riforme che doveva fare non le ha fatte, perché se andiamo a guardare quello che ha fatto fino al governo, ha agito su due campi: quello sul comparto della sicurezza attraverso il Ministero dell'Interno e sul comparto, diciamo così, del federalismo fiscale. Quindi è la Lega che ha sviluppato la propria azione di governo. Non l'ha fatto Berlusconi sui due grandi temi che sono le gambe sulle quali si poggia il berlusconismo, e cioè la riforma della giustizia e la riforma delle tasse, e non l'ha fatto nemmeno Gianfranco Fini, che da sempre, perché la destra si poggia anche su queste gambe, cioè la riforma presidenzialista del sistema e anche diciamo il concetto di legge e ordine sviluppato certamente in modo più moderno e diverso rispetto al passato. E quindi per il momento gli unici a fare politica sono quelli della Lega, i quali a loro volta hanno le altre difficoltà, insomma, magari difficoltà di crescita legate a scontri interni e a battaglie tra colonnelli all'ombra di Bossi. Quindi un Berlusconi che in buona sostanza il primo responsabile della mancata realizzazione della sua agenda, poi intorno a lui, sotto di lui, dinamiche politiche complesse, Lega da una parte, Lega Tremonti dall'altra, una convergenza con Fini oramai strategicamente non solo logorata ma praticamente impossibile a ripristinarsi come era prima. Quindi altro che delusione, una serie di passi successivi verso un mancato adempimento di un contratto con i propri elettori. Questa in sintesi l'opinione di Verderami. Sentiamo Carlo Di Castro. La metafora del calcistica, insomma, la palla non la si mette dentro, come la nazionale esattamente, italiana. Esattamente, sì. Che dice Fusi? Ma io dico questo, che a mio avviso si mischiano due elementi entrambi fondamentali nell'azione del governo, nella valutazione dell'azione di Berlusconi e della maggioranza, due elementi che sono a mio avviso decisivi. Il primo l'ho accennato Verderami, e anche tu in realtà parlando prima della dinamica che si è creata, cioè noi abbiamo una situazione nella quale l'Italia nel 2008 si è sostanzialmente affidata a Berlusconi, considerandolo l'unico asse portante, l'unico leader politico in grado di risolvere i problemi degli italiani. Questa cosa è stata un affidamento molto forte, con aspettative molto forti che peraltro lo stesso Berlusconi ha alimentato in campagna elettorale, e di fronte a queste aspettative l'azione del governo, e questo mi sembra che non lo dica solo quella parte dell'opinione pubblica più berlusconiana ma anche osservatori più indipendenti, di fronte a questa aspettativa l'azione del governo è stata senz'altro carente. Carente strutturalmente, come ha detto Verderami, ed anche carente dal punto di vista della strategia politica. Insomma, il messaggio che voleva dare Berlusconi, cioè cambierò il paese, modificherò le cose, lo rivolterò come un calzino, farò le riforme, tutta questa roba qua si è visto veramente poco o nulla. In più, su questo ha insistito e insiste l'emergenza mondiale dell'economia, perché questo è uno degli elementi, forse il principale, che ha devastato l'azione politica di tutti i governi occidentali e quindi anche quello dell'Italia. Di fronte a questo Berlusconi un messaggio politico non ce l'ha. Se noi vediamo quello che accade nel resto del mondo, nel resto d'Europa, di fronte alla difficoltà economica, penso a Cameron che appena eletto dice e poi vincitore delle elezioni in quel modo un po' bislacco, costretto ad un'alleanza che non è proprio tipica del sistema inglese, che va davanti ai suoi elettori che lo hanno appena premiato e gli dice: cari amici miei, guardate che qui per anni avremo difficoltà. Se penso alla Merkel, che pure veniva da una sconfitta elettorale, non da un successo come Cameron, che fa una manovra economica da 100 miliardi di euro, e se ne intestano l'importanza. Di fronte a questo noi abbiamo un Presidente del Consiglio che un messaggio per la crisi non ce l'ha. Continua a dire che la crisi è alle nostre spalle, va tutto bene, o comunque stiamo superando. Cioè trova difficoltà a esprimere un concetto, un'idea guida su come gestire il paese di qui alla fine della legislatura o comunque in questo passaggio decisivo. E questo secondo me è un elemento strutturale di Berlusconi che denota una sua difficoltà politica nell'azione di governo che adesso si evidenzia. A questo però ci si aggiunge un altro elemento che secondo me è ancora più devastante, cioè il fatto che a qualche livello in molti, vero o falso che sia, presumono che la parabola berlusconiana sia orientata verso il tramonto, e quindi si scatena una battaglia sul dopo Berlusconi. Tutte le cose che hai detto te e quelle che ha detto Verderami, le azioni di Tremonti, la Lega, Fini, eccetera, in qualche maniera a mio avviso vanno ricondotte dentro l'orizzonte di una possibile evoluzione del berlusconismo che porta a un dopo Berlusconi. questo processo Berlusconi non solo lo nega, ma in realtà non lo gestisce, così come non gestisce l'azione di governo, e quindi si scatenano, come dire, le aspettative e le ambizioni, giustificate naturalmente, di tanti soggetti, della Lega, di Fini, di altri dentro il PDL. Ecco, queste due cose, cioè la difficoltà nell'azione di governo per mancanza di una visione strategica su cosa fare, come farlo, su quale riforme impostare, e il processo, diciamo, di destrutturazione del piedistallo di consenso berlusconiano attorno alla sua leadership unica, unitaria e irripetibile, ecco, questi due elementi secondo me concorrono a determinare una grande confusione, una grande fibrillazione, di cui poi i giornali più vicini a Berlusconi si fanno interpreti e portavoce, lo fanno con l'intenzione di pungolarlo, a sviluppare un'azione, a dare il colpo d'ala. Secondo me lo fanno anche consapevolmente del fatto che questa cosa sarà molto difficile, e quindi ognuno, insomma, si, diciamo, piazza le batterie dove può, per vedere cosa può ereditare al meglio possibile dell'eredità berlusconiana nel momento in cui questa mostra la corda. Quindi c'è anche molto gioco delle parti, perché da una parte l'insostituibilità di Berlusconi da 16 anni, da che ha creato in pochi mesi lo strumento elettorale che ha riproposto poi in 16 anni, una volta sì, una volta no, ma tutte le volte alternatamente è riuscito a fare di questo un veicolo per una vittoria elettorale, ogni volta che lo hanno buttato giù si è ritirato su, però l'insostituibilità di Berlusconi di fronte a quello che Fusi adesso indicava come un tramonto, però la prospettiva di un lungo tramonto, un lungo viale del tramonto di qui a quando ci dovrebbero essere elezioni politiche alla scadenza ordinaria. Verderamo in tutto questo, in questo gioco delle parti, che quindi attribuirebbe agli stessi leader del centrodestra la primaria responsabilità di essersi impegnati in un gioco ad autosmontare i loro reciproci legami e la capacità di leadership di Berlusconi, con una colpa di Berlusconi, ma insomma con un gioco a cui tutti, al di là di quello che dicono, si sono inoltrati consapevolmente. Allora, in questo gioco, dire che poi siete voi, il Corriere della Sera, i poteri forti, è una parte del gioco? Oppure crede davvero una parte del centrodestra che ci sia qualche potente ombra che attraverso, mi viene un po' da sorridere a dirlo, ma insomma, siccome lo hanno detto, qualche potente ombra che attraverso le firme degli editorialisti del Corriere della Sera è lui davvero a temere questa portentosa agenda del governo del centrodestra? È un gioco delle parti anche quello? O invece il centrodestra, come al solito, poi a furia di avere il capo fuori dai salotti buoni, come si suol dire, quel che resta di quei quattro patti di sindacato che un tempo comandava, per favore, ma Berlusconi è esso stesso ormai salotto, è salotto buono per eccellenza, i vecchi salotti non esistono più, è Berlusconi il salotto per l'eccellenza, lo ha costruito lui negli anni, le relazioni con i potenti, diciamo così, con i poteri forti, con quelli che una volta erano i poteri forti del paese, che poi alla fine si sono dimostrati più deboli e che poi alla fine sono stati sconfitti da Berlusconi, e Berlusconi li conosce tutti. Io naturalmente, quando definisco i miei padroni, nel senso che poi sono tutti hanno tutti azioni del Corriere della Sera, quindi non scherziamo, non esiste operazione di poteri forti, esiste semplicemente come dire, la constatazione di una fase di stallo talmente pericolosa, più pericolosa di una crisi, che come dire, rischia veramente di mettere, di pregiudicare ancor di più lo sviluppo del paese, il futuro del paese, che si trova in una situazione economica congiunturale, è chiaro, però insomma, è una situazione economica molto difficile. La domanda che faccio anche a Fusi è: quello di cui si parla in alcuni scenaristi politici ogni tanto evocano l'idea che ne so, un'accelerazione di nuovo dell'eurocrisi, per cui gli spread spagnoli scoppiano verso l'alto, i tedeschi dicono non vi aiutiamo, scoppia l'Europa, e allora magari anche nel governo italiano ci si prende, per così dire, a legnate, perché Tremonti a quel punto direbbe tagliamo altri 20-30 miliardi di euro, Berlusconi dice no, magari si va in crisi. Oppure che ne so, un'accelerazione di tipo giudiziario, tanto qui la realtà supera sempre ogni fantasia, oppure ancora qualche altro problema, qualche per esempio inasprimento nel rapporto con il Quirinale, magari il Presidente della Camera, sulla calendarizzazione di un provvedimento o su un decreto legge. Per una qualunque di queste evenienze, ipotizziamo che ci sia prima, ben prima della scadenza della legislatura, Fusi, uno scenario nel quale il governo dovesse avere insomma scarsi numeri in Parlamento o almeno in una delle due Camere. In quel caso tutti pensano che non si andrebbe a rivotare e ci sarebbe qualche esordio di formula anomala, ritorno al passato, tecnici più centristi, lo sai Dio. Ma queste cose esistono solo nella testa dei giornalisti o c'è qualche concreta possibilità, Fusi, che davvero ne possa avvenire 5%, 10% in questa legislatura? No, esistono nella testa dei giornalisti e anche nella testa di tanti che si affannano a come dire, elucubrare su quelli che possono essere gli scenari futuri, che naturalmente io non so, non conosco, non capisco dove vada a parare, quindi bisognerà solamente guardare come evolveranno le questioni. Però è quello che tu dici è vero, cioè nel senso che esiste la percezione, lo dicevamo prima, che a fronte di una condizione di stallo, come dice Verderami, giustamente, peraltro ancora più pericolosa di quella di una evoluzione qualunque, anche traumatica della legislatura, a fronte di questo però esiste anche il pericolo che la stessa maggioranza, per i motivi che dicevi te, economici, giudiziari o chissà che altro, possa implodere e a quel punto crearsi una dimensione nuova. Quelli, i colleghi che più seguono da vicino Berlusconi ogni tanto evocano questa situazione dicendo, riportando considerazioni più o meno attribuibili a Berlusconi, secondo le quali lui dice vabbè adesso io mi sono stancato, se gli alleati fanno così andiamo a votare, si fanno le elezioni anticipate eccetera eccetera. Io non credo alle elezioni anticipate perché non capisco neanche come ci si potrebbe arrivare, cioè sarebbe un autosuicidio della maggioranza, non so quali potrebbero essere le motivazioni, cosa potrebbe dire Berlusconi al paese che ha numeri così forti in Parlamento, un'alleanza così stretta con la Lega, come potrebbe andare dagli elettori in una condizione economica così grave, dire vabbè facciamo finta di niente, azzeriamo tutto, ritorniamo a votare. Questo francamente non mi sembra possibile. Quindi la conseguenza di una eventuale crisi, nella quale ricordiamo poi ci si può anche precipitare indipendentemente dalla volontà dei singoli, insomma, ecco, le conseguenze di un'eventuale crisi potrebbe essere una nuova maggioranza spuria che metterebbe insieme tanta gente, da Casini a Fini a pezzi del PD e a non so chi altro, per cambiare la legge elettorale e poi andare a votare. È una eventualità a cui appunto io non so dare una percentuale, comunque sarebbe vicina a quella che dici te, insomma molto molto piccola. Comunque pasticci e pasticcioni, diciamo, di pasticci e pasticcioni sono piene le teste di chi si applica una politica che non è fatta di proposte né agli elettori, un contratto con gli elettori, un programma realizzato e poi si torna a votare a scadenza. Insomma, l'Italia è sempre quella delle vie laterali. Purtroppo questo bipolarismo scazzonte, molto zoppicante, non è riuscito a evitare che il più della politica dica ma il problema del maggioritario è proprio questo, perché non consente ai fantasisti della politica. I fantasisti della politica sono quelli che dicono voi dateci il voto, poi tanto lo utilizziamo come vogliamo noi, quando vogliamo noi e per fare quello che diciamo noi, riservandoci di deciderlo tra noi. Ecco, questa è un pochino la tendenza in base alla quale tutti questi scenari poi tornano a riproporsi. Però, come avrete capito da parte degli osservatori, equilibrati, testate diverse, insomma, Berlusconi una responsabilità qua ce l'ha, oramai è evidente, nessuno lo nega. I pezzi del centrodestra sono i responsabili del mancato adempimento del contratto con gli elettori, visto che non è che possono proprio immaginare di raccontare che c'è un'opposizione straforte che glielo impedisce, e quindi nel seguito, dopo la pubblicità, vedremo proprio con Vittorio Feltri come la pensa una delle firme più di riferimento del lettorato vicino al centrodestra, di quelli che meglio interpretano le opinioni dirette senza tante giri di parole su come loro stessi e i lettori del giornale, i lettori dei giornali che Feltri ha creato e portato al successo, amano parlare e sentirsi rispondere da Berlusconi, cioè senza aprire la lingua. Eccoci tornati in studio e abbiamo appunto collegato con noi il direttore del giornale Vittorio Feltri, grazie. Buongiorno, grazie a voi. Allora, direttore, qualche giorno fa un editoriale in prima pagina, in eretto, in cui rispondeva alla dichiarazione resa da Berlusconi che invitava i lettori dei giornali allo sciopero per come i giornali rappresentano la realtà, ed era una risposta a Berlusconi, in cui col tono diretto diceva attenzione perché gli elettori poi magari replicano allo stesso modo ai politici, e nel merito il direttore Feltri reputa sbagliata anche la riforma con la quale il governo interviene, la maggioranza stanno intervenendo in materia di intercettazioni, ma sbagliata per la parte che riguarda la stampa e i giornali, non per l'orientamento in sé o per il fine della legge. Ecco, allora, ieri la risposta a Bondi che abbiamo prima letto ai nostri ascoltatori, oggi un altro editoriale, questa volta rivolto su Fini, ma nel nocciolo del ragionamento che lei rivolge a Berlusconi, c'è la preoccupazione che Berlusconi se ne renda conto ma non voglia dirlo, non se ne renda conto, oppure qual è la sua analisi? Perché Berlusconi lo segue da anni, lo conosce bene, cosa sta avvenendo nella percezione che Berlusconi ha di ciò che fa il governo intorno a sé, che è una percezione che lei dà con grande chiarezza, lo sostiene ma dice però non si possono evitare delle critiche, degli errori che fate voi, cari signori del governo. Questo è assolutamente corretto, perché io immagino che in una democrazia si debbano tollerare anche le critiche, e Berlusconi è sommerso a volte dalle critiche, ma sono critiche mosse dal pregiudizio. Ormai il paese si è spaccato fra berlusconiani e anti-berlusconiani, le sfumature non esistono più, per cui spesso non si riesce a ragionare, perché i berlusconiani non ascoltano gli anti-berlusconiani e viceversa, non si legittimano a vicenda, si considerano stupidi gli uni gli altri, e questo naturalmente impedisce una corretta dialettica democratica. Però Berlusconi poi, dal mio punto di vista, non riesce ad occuparsi della routine politica, quella che richiede un mestieraccio, anzi la detesta, detestandola non la capisce, non la impara, e questo crea dei grossi problemi, perché ogni volta che si tratta di fare una riforma, Berlusconi si scontra con la Costituzione, deve cambiare la Costituzione non si può cambiare se non con l'accordo dell'opposizione, altrimenti si finisce sempre al referendum confermativo, che è un terno all'otto. Quindi come si fa a procedere? E Berlusconi riesce a fare benissimo le cose che rientrano nel suo bagaglio culturale, per esempio come ministro degli esteri oppure come ministro delle attività produttive. Abbiamo visto che ha fatto crescere l'Italia notevolmente nella considerazione, per esempio, dell'Europa, ma non soltanto dell'Europa, grazie a un'autorevolezza che qui in Italia nessuno è disposto ad accreditargli. Non so se mi spiego. In questi giorni abbiamo visto quanti affari è riuscito a concludere all'estero, quindi queste cose eccelle, c'è poco da fare. Per il resto poi si affida anche a delle gerarchie di partito che non riescono a condurlo il partito stesso, perché alla fine non hanno forse le deleghe sufficienti. Insomma, si crea una sorta di cortocircuito per cui, ripeto, la gestione ordinaria delle cose politiche viene fatta con tale approssimazione da non consentire al governo di vivere in un'atmosfera, non dico serena, ma quel minimo di concordia necessaria non c'è più. E Fetri, secondo lei, dopo 16 anni da che Berlusconi si è inventato appunto uno strumento nuovo politico incardinato su di lui, che però da 16 anni lo rende protagonista indiscusso della politica italiana, che divide la politica italiana, come dice lei, spesso anche noi diciamo c'è una divisione un po' tribale che impedisce di ragionare, ma alla luce di questo, lei pensa che per come Berlusconi ci ha abituato a vedere che reagisce nelle difficoltà, lei si immagina più facilmente un Berlusconi che riscuote l'albero, torna a se stesso, cioè torna capace di decisioni, si libera intorno a sé di qualche cameriere di troppo per evitare errori alla Scaiola, alla Brancher e così via, e torna a far bene quello che sa fare, ma lui in prima persona, oppure oramai c'è un sviluppo intorno a sé, i rapporti con Fini, prima abbiamo evocato quello che dicono alcuni del centrodestra sui poteri forti, quello che scrive il Corriere, da stringere Berlusconi in una noia talmente forte di tutto quello che lo circonda da impedire di pensare che scuota l'albero e torni il Tarzan che conosciamo, insomma, lei che pensa? Quello che lei dice lo condivido lo condivido pienamente, soprattutto la seconda parte. Il rischio è che si vada un po' tutti nel pallone. Certo, Berlusconi le cose che sa fare le fa non bene, ma le fa benissimo. Ha sodato questo, però credo che, se mi consente una metafora sportiva, ricordo un grande pugile, Tyson, che saliva sul ring e dopo 30 secondi il match era finito perché l'avversario di Tyson finiva a tappeto. Ecco, Berlusconi mi ricorda Tyson, però a un certo punto Tyson, non so per quale motivo, forse per aver sottovalutato un avversario, salì sul ring e fu mandato al tappeto lui dopo due o tre round. Ecco, il rischio c'è sempre e io non vorrei che arrivasse anche questo momento per Berlusconi. Sta di fatto che se le cose vanno avanti così, con un fine che sappiamo, insomma, crea delle difficoltà. Io questa mattina ho scritto un fondo, il titolo è Fini è una risorsa ma per l'opposizione, che è un po' il senso di tutto l'articolo. E poi non dobbiamo dimenticare che anche all'interno del PDL, cioè della ex Forza Italia, si sono create delle divisioni. Adesso ci sono turbolenze nella Lega, che è un alleato importantissimo, e tutto questo sommato io temo possa provocare un disastro. Lei crede all'ipotesi di un Tremonti che, per così dire, forte del rapporto con la Lega, nel caso in cui ci fosse un azzoppamento, un incidente, un infortunio, chiamiamolo come lo si vuole, tra Fini, circuito istituzionale, il Presidente della Repubblica? Lei crede all'ipotesi di un Tremonti che con la Lega fossero eventualmente capaci in questa stessa legislatura di dire: Silvio, fatti da parte che prendiamo noi in mano la cosa, magari con pezzi del centrismo, di qua di là? Io non ci credo molto, però chiedo a lei che opinione ha? Io penso che Tremonti sia un fuoriclasse quando fa il suo mestiere, non credo sia capace, né abbia voglia, né rientri nel suo temperamento una sorta di, non dico di golpe perché ormai questo termine, vabbè, è stato desematizzato, ma non vorrei che evocasse cose strane. Non lo considero capace di tessere una trama così torbida. Pertanto penso che nel centrodestra ci sia Tremonti un uomo, uno specialista di grande livello per fare quello che ha fatto fino adesso, tant'è che se l'Italia è molto ascoltata e guardata con interesse per come ha gestito la crisi, ciò è dovuto in gran parte anche a Tremonti, ma Tremonti ha bisogno di Berlusconi per fare questo. Non dimentichiamo anche recentemente in Europa, quando sono state prese certe decisioni, è stato un tandem che ha portato al successo, e il tandem era costituito appunto da Tremonti e Berlusconi. Credo piuttosto che si possa temere un gran pasticcio, e cioè che il governo possa essere in difficoltà e quindi cadere, magari per Berlusconi con la speranza in elezioni anticipate, ma che di fronte all'ipotesi di elezioni anticipate il presidente Napolitano tenti di formare una nuova maggioranza, non so bene con chi, però lo possiamo immaginare. Bisognerebbe evocare la solita ammucchiata o qualcosa del genere, anche se il termine è volgare. E poi immagino un governo istituzionale che come primo obiettivo, almeno da parte di Fini, potrebbe essere quello di una nuova legge elettorale che in caso di consultazioni consentirebbe intanto a Fini di sopravvivere. E senza lo sbarramento al 4%. E poi tutto il resto, insomma, vedete che anche Vittorio Feltri, che pure ha un'autorevolezza indiscussa nell'interpretare una parte importantissima degli umori, come dice sempre lui, gli umori dei suoi lettori, che sono anche quasi sempre, spessissimo, gli umori della parte poi più appassionata della base elettorale del centrodestra, ecco, e anche nelle sue parole, dopo aver evocato l'immagine di Tyson, grandissimo pugile, 30 secondi fuori dal ring, il suo avversario di turno, però poi capita che Tyson va fuori pure lui, e quando nessuno se l'aspetta, e anche Feltri ha terminato questo intervento, di cui lo ringraziamo, evocando quegli scenari un po' complicatini per addetti ai lavori politici con cui Carlo Fusi e Verderami finivano sulla prima parte della trasmissione. Eccoci tornati in studio, alcune telefonate di voi ascoltatori intorno al tema della giornata, la crisi del centrodestra, Berlusconi che delude ma è consapevole o inconsapevole, è in un sviluppo di reti che lo influenzano troppo, gli impediscono di dare il meglio di sé, oppure è proprio lui che ha appannato dopo anni, e le mancate riforme delle tasse, della giustizia, le impuntature sui testi Ghedini, i casi Brancher, i casi Scajola, chi più ne ha più ne metta, testimoniano il fatto che siamo in attenuazione, anzi in un calo verticale della capacità di sapere vedere ciò che accade intorno a sé, sotto di sé, che poi in definitiva è la prima caratteristica di un leader accettabile, non dico di grande caratura, ma accettabile, santo Iddio. Ecco, sentiamo come la pensate. Paolo da Ancona, che ne pensa Paolo? Io penso che consapevoli bisogna che siano gli italiani, non tanto più loro oramai. Io sono di centrodestra, pentitissimo, mi taglierei, come si può dire, la mano come Mozio Scevo da quello che ho fatto, però è chiaro che l'italiano deve essere consapevole di cosa sta facendo Berlusconi, cosa gli sta facendo, perché io da centrodestra posso dire che vedo un'informazione oramai che si chiama Minzolini e Bruno Vespa e non vedo nulla di più. Se io devo comprarmi, io di centrodestra che ho sempre comprato al limite del Secolo d'Italia, ma devo comprarmi il Fatto Quotidiano per leggere quello che fa Berlusconi veramente nero, vuol dire che questo è un paese che ha poca speranza, se non grazie agli italiani, che quando dovranno ritornare al voto si vedrà chi ha la buona malafede e chi ha la malafede, perché a questo chi vedrà alle prossime elezioni sì, Berlusconi. Grazie Paolo, perché sentiamo solo una parola su due. Comunque l'opinione è stata correttamente espressa, si è capita. Molta delusione da parte di un elettore e consigliere del centrodestra. Adriana dalla provincia di Viterbo, lei che pensa? Sì, io penso che questo elettore che mi ha preceduto non è assolutamente del centrodestra, perché io sono del centrodestra, vedo anche gli errori che sono stati fatti, però Berlusconi rimane un grande leader, mi dispiace, e io una volta ammiravo Fini, adesso le posso dire, fra le mie conoscenze, guardi, io lavoro in un ambito abbastanza vasto, è detestato e accusano Fini di essere la causa di questa situazione che si è venuta a creare. Però se lo scordi pure quell'elettore finto di centrodestra, che noi voteremo sempre Berlusconi. Grazie Adriana. Adriana, secondo me rappresenta una componente non trascurabile dell'elettorato di centrodestra, cioè la parte che vede in Berlusconi l'elemento di discontinuità, tutto quello che poi anche gli osservatori, diciamo così, che spesso aggrottano il sopracciglio, criticano gli eccessi di Berlusconi, il suo essere fuori da tutti gli schemi, il fatto di raccontare che ha avuto 12 fidanzate a carioca al presidente brasiliano, insomma tutto quello che fa parte della ordinaria quotidiana follia del nostro premier, quello viene individuato da sempre da una parte dell'elettorato molto considerevole del centrodestra come la vera garanzia che non è un politico di professione, e questo è ciò che imbestialisce altri milioni di italiani dall'altra parte, che dicono allora siete tutti dei buffoni, e questo è il nocciolo duro della contrapposizione su Berlusconi dopo tanti anni. Sentiamo Andrea da Roma. Andrea, come la pensi? Buongiorno, salve, come la vedo io? Io mi sono un po' stancato di sentir definire Berlusconi, prima un ospite, io non mi ricordo il nome purtroppo, mi scusi, diceva il prestigio in Europa, ma io sono un professore. Era Vittorio Feltri. Vittorio, vabbè, allora è inutile che lo dico, nemmeno gli rispondo, vabbè. Io viaggio in Europa per lavoro, mi vergogno ogni 5 minuti, ma guardi, in Spagna c'è gente che mi ha detto, ma com'è possibile, noi ammiravamo l'Italia, com'è possibile che un clown del genere vi governa? Cioè, che prestigio in Europa, ma di che parliamo? E poi l'ultima cosa, diceva prima, quello che sa far bene bene Berlusconi, lo fa meglio di tutti gli affari. E beh, allora facesse l'imprenditore, ma un presidente del Consiglio ci deve rappresentare. No, sì, lui diceva i contratti chiusi all'estero con grande procedure di aggiudicazione di gare pubbliche, non gli affari, non stava parlando degli affari del gruppo Berlusconi in quel momento, Feltri. Sì, ma anche gli affari a nome dell'Italia, ma l'Italia deve essere rappresentata in modo degno, no? E beh, il presidente del Consiglio deve fare politica. Ma ricordiamoci quello che ha detto al premier albanese sulle ragazze albanese. Cioè, ma questo è io per primo, l'ho appena evocato, lui su questo niente, è incontenibile. Va bene, Andrea da Roma dice: l'immagine italiana nel mondo non è affatto ispirata da quel prestigio che alcuni dicono. Sentiamo ancora Massimo da Modena. Massimo da Modena, come la pensa? Ma dunque, guardi, il problema secondo me è che tutte queste cose che sento sono cose da, mi consenta la mia affermazione, da spettatore del Grande Fratello. Parliamo di gente che lavora e che tutti i giorni è aggiornato e che segue le notizie dell'economia. Io sono un elettore di destra, lo sono sempre stato, ma quando io dissi alla mia amica onorevole Bertolini, che abita a 20 metri da casa mia, ma due anni fa togliamo 100.000 auto blu, mi guardò come se io avessi parlato di marziani, eccetera, eccetera. Brancher, cosa c'entra Brancher in tutti i nostri problemi? Chi sta ricattando Brancher? Perché questo Brancher? Cos'ha nel cassetto? Cioè, tutta questa corte di miracoli intorno a Berlusconi, è questo che mi stupisce, che mi colpisce, che non capisco cosa c'entra con i nostri problemi di tutti i giorni, col fatto che questo governo fa una manovra che vuole distruggere la miglior distribuzione del farmaco che ci sia nel mondo, con delle leggi stupide, con dei legacci. Io sono un imprenditore nel mio piccolo, ma questa gente qua ha bevuto e io continuerò a votare centrodestra perché mi rifiuto di votare centrodestra. Ecco, io non so che cosa voto perché ormai ho un atteggiamento del tipo di grande diffidenza e distanza. La mia opinione è che sul punto di fondo, il contratto degli italiani, cioè le tasse, la spesa pubblica, la discontinuità su questo, la spesa pubblica 52,5% del PIL, la voce dell'ultimo elettore, io mi augurerei fosse ascoltata da molti. Questa è la mia personalissima opinione, l'unica cosa che dico, perché dopo 16 anni ho capito che sul fenomeno Berlusconi chiunque fa previsioni rischia di essere smentito, anche chi è convinto che sia alla fine della fiera il peggio del peggio. Due battute finali, proprio di 10 secondi a testa, una per Drammi e una Fusi. Vi aspettate che questa legislatura vada avanti così e continueremo a fare di queste discussioni, oppure ci sono sorprese secondo te possibili diverse da quello che abbiamo detto, Verderami? No, io mi aspetto che ci sia, c'è solo Berlusconi, forse non ci siamo capiti. Cioè, se la debolezza di Berlusconi è tale che sarebbe bastata non la famosa, ti ricorderai, la famosa spallata con la quale venne buttato giù Prodi, ma sarebbe bastata veramente una piccola spintarella per buttare giù questo governo. Se questo governo non cade perché non ci sono alternative a Berlusconi e perché probabilmente si verificherà la profezia che ieri stesso Berlusconi ha detto a Panama, quando tra il serio e il faceto ha raccontato che nel 2012 avrebbe già deciso di lasciare la politica, ma siccome il presidente di Panama non vuole qui nel 2014 a presenziare al taglio del nastro non adempirà questa cosa. Fusi, che dici anche tu? Assisteremo a un Berlusconi di nuovo in campo ancora alle prossime elezioni, qualunque sia la loro data? Questo non lo so. Io so che Berlusconi è appunto insostituibile, non esistono alternative alla sua leadership né dentro il centrodestra né dentro il centrosinistra, quindi mi aspetto che la legislatura arrivi al suo compimento naturale. Aggiungo che però continuando con questa condizione, questo non sarà una risorsa ma sarà un ulteriore elemento di aggravamento della crisi italiana. Ecco, questo penso anch'io, lo penso come Carlo Fusi sull'ulteriore aggravamento, perché dopo 16 anni non si può non vedere che di questo si tratta in termini oggettivi e freddi, comunque abbiate votato. Io ringrazio il tecnico oggi Filippo Lacorte, come sempre Alessandro Marco Tulli che mi aiuta a mettere in piedi, a tenere in piedi la corte dei nostri ospiti. Abbiamo avuto Carlo Fusi, abbiamo avuto Francesco Verderami, abbiamo avuto il direttore del giornale Vittorio Feltri. Appuntamento a domani, Linea Giornale Radio.